Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ahimè, non vorrei gettare sale su ferite che già penso siano abbastanza dolorose, ma sapete che è ora di pensare alle vacanze. Vuol dire, sì, con i problemi che ci sono, figurati, se pensiamo alle vacanze. Ma in qualche modo bisognerà pensarci. L'estate è lunga, soprattutto chi ha figli. È difficile passare luglio e agosto sempre nello stesso posto. Qualcosa bisognerà pur fare. Nei limitati, risicati, rimodulati budget familiari, comunque sia, è ora di pensarci. Qualcuno ci avrà già pensato, qualcuno avrà pensato di seguire la tradizionale maniera di affrontare questo problema tutti gli anni. Si va allo stesso posto dove si va da sempre, si prenota. Sì, però forse qualcuno si è fatto qualche conticino e quest'anno forse quello che l'anno scorso poteva essere sopportabile non è più sopportabile. Altri avranno immaginato o immagineranno, faccio tutte le ipotesi in modo che voi possiate poi confortarmi con quella che è la vostra esperienza. Cioè, questo è un anno di crisi, nessuno avrà prenotato, c'è crisi anche per gli albergatori, anche per la ricezione turistica, quindi partiamo, andiamo alla deriva senza prenotare, senza nulla, troveremo posti deserti, la gente ci stenderà tappeti di broccato rosso soltanto perché noi ci fermiamo una notte, quindi facciamo una sorta di turismo itinerante. Altri staranno già cercando su internet i voli più convenienti, le combinazioni più interessanti. Altri avranno resumato le seconde case, le case della nonna, la vecchia e abbandonato appartamento in campagna, le case su cui non si va più perché, nelle quali non si va più perché ci si andava quando i figli erano piccoli. E improvvisamente ci si ricorda che in fondo quella casetta comprata in multiproprietà tanti anni fa e lasciata abbandonata alle muffe e agli insetti potrebbe tornare utile. Altri stanno cercando probabilmente la via dello scrocco. La via dello scrocco è tra le vie più facili e più perseguibili. Si cominciano a contattare gli amici che si sa che hanno location vacanziere appetibili. Ti vengo a trovare, passo a salutarti, quant'è che non ci vediamo, quanto siamo stati bene e via dicendo. Insomma, la mia impressione è che questa sarà un'estate all'insegna dell'artificio, all'insegna della fantasia, all'insegna della maniera più semplice per riuscire ad assolvere quello che è un rituale irrinunciabile. La vacanza è vero che corrobora, la vacanza è vero che è necessaria, si vive anche benissimo senza vacanza, generazioni e generazioni prima di noi sono riusciti a vivere senza necessità di pensare al tempo della vacanza, ma visto che ancora siamo in una sorta di generazione di passaggio, ancora abbiamo questo input e questa necessità fisiologica di andare in vacanza, anche giusto che ci andiamo, come ci stiamo inventando le vacanze quest'anno? 800240024. Noi, nonostante ci hanno obbligato quest'anno a fare scontrino fiscale ad ogni ombrellone lettino, noi abbiamo deciso di tenere comunque i prezzi costanti dal 2007. La crisi c'è, si sente questa cosa. Parola d'ordine, risparmiare. Molte famiglie italiane sono costrette a riprogrammare le loro vacanze facendo i conti con i portafogli sempre meno pesante. È del 15% il calo degli affitti delle cabine solo sul litorale romano, un dato che fa riflettere. Andremo qualche settimana all'estero, magari anche per risparmiare, perché in Italia si spende molto di più, quindi forse siamo orientati più sull'Oriente, Thailandia, insomma, che i prezzi sono molto più, diciamo, esistono più convenienti. Esistono anche altre fattispecie che rendono più problematica questa scelta. Avete sentito questo servizio? In realtà, se una volta era abbastanza facile seguire il tantam, affittare la casa in un posto di villeggiatura, in una bella località di mare, si andava, la vecchia faceva la furbetta, ci diceva il prezzo, sganciavamo il prezzo, molte volte anticipato e tutto, senza ombra di ricevuta. E quindi c'era un mercato nero fiorente, inutile prendersi in giro. Il mercato, le case affittate in località di mare, andate in Sardegna, andate in un qualsiasi posto, andate in Puglia, andate nelle isole, sì, si trovano comprano le case, le agenzie vi mettono in contatto con il proprietario, prendono la loro parte, ma poi la trattativa è fiscalmente molto occulta e molto limacciosa. Beh, quest'anno ci staranno un po' attenti anche loro, sarà giusto che anche loro paghino le loro tasse, quindi non è più che la seconda casa del mare, un mese ci si va in affitto con la famiglia, altri due mesi ci si guadagna la manutenzione affittandola al nero a cifre stratosferiche. Questo rende comunque più difficile alcune scelte. Molti, nel rischio di incappare, perché ci saranno, preparatevi, blitz della Guardia di Finanza, sicuramente nelle zone villeggiatura andranno casa per casa e vedranno: lei, scusi, mi fa vedere la ricevuta dell'affitto di questa casa che si tiene per un mese. Ecco, di fronte a questo, nel momento di perplessità, molti preferiranno non affittare perché non hanno lo status mentale che chiunque abbia un reddito deve pagare le tasse su quel reddito. Sono abituati che negli ultimi 20 anni hanno sempre affittato al nero, e quindi anche questo sarà un problema in più. Altri cercheranno la via ecologica. Ci sono molte maniere per passare le vacanze intelligenti, interessanti, in posti non propriamente legati alle transumanze vacanziere, ma molto piacevoli dal punto di vista naturalistico, molto interessanti. Altri viaggi massacro, i famosi classici viaggi massacro che negli anni 70 e 80 tutti abbiamo fatto. Era l'iniziazione alla vacanza degli adolescenti, dei post-adolescenti, degli appena licenziati dalla maturità, e quindi si pigliava, si partiva con pochissimi soldi in tasca, si passava tutto il tempo allucinando e cheggiando le tagliatelle che avrebbe fatto la mamma quando tornavamo, ma allo stesso tempo si viaggiava, si vedeva, non si mangiava nulla, si mangiava pochissimo, si mangiava male, si dormiva negli ostelli a gioventù, si girava con i biglietti chilometrici fatti apposta per gli studenti, ma insomma ci si muoveva. Ritorneremo a questo 800 24 00 24. Se si è abituati a cercare offerte, alberghi, voli, tutte queste cose così, tutte queste cose qua, su internet è sicuramente molto molto meglio organizzare le proprie vacanze col metodo del fai da te. Molto spesso è meglio prenotare con molto tempo, molto anticipo, perché sì, ok, è vero che i last minute aiutano a risparmiare, però non è detto che compagnie, alberghi, tour operator poi facciano veramente sconti per alcune destinazioni, cioè, nel senso, magari li fanno, però se partite da, per esempio come me, da Roma, non è detto che li facciano con partenza da Roma, ma magari li fanno con partenza da Milano, quindi a quel punto voi dovreste andare a spendere i soldi per spostarvi da Roma a Milano. E questa è una descrizione attraverso un luogo in rete di una persona che sta spiegando come sia difficile anche cercare di massimalizzare nella maniera migliore le proprie risorse con la volontà, col desiderio di andare in vacanza. Mi stanno già arrivando alcuni sms, leggo qualche impressione per far capire quello che è il polso. I tedeschi, mi scrivono, una persona, non vanno in Grecia per non essere scuoiati. Ecco, questo, la Grecia probabilmente per le note vicende è un paese molto appetibile che abbia una valuta interessante per andare in vacanza, perché sta in una situazione disastrosa, però non ci vanno i tedeschi per non essere scuoiati, c'è l'ascoltatore. Quest'anno, dice un altro ascoltatore, dirotto i soldi delle vacanze al nuovo PC con cui continuare a lavorare. Meno male che abito a Rimini, anche se la spiaggia la vediamo di cattivo occhio e di rado. Quest'anno la sfrutteremo meglio. Ecco, si comincia a fare delle scelte, non si può fare tutto. Non si va in vacanza, si acquista la nuova macchina da lavoro, perché probabilmente viene ritenuta più indispensabile. Quest'anno dirotto i soldi delle vacanze, l'abbiamo letto. Siamo in due, vendiamo collane nel mio negozio, abbiamo per ora 260 euro, vedremo dove arriveremo, Roberto e Sergio. C'hanno 260 euro in due, cercano di capire quale sarà la cifra per le loro vacanze. Poi un altro scrive, il solito persona che si sveglia di buon umore, Nicoletti, dove cazzo vivi? È dal 2007 che non faccio una vacanza. Vaffanculo te e le vacanze. Beh, non è che finora sia stato impossibile farle. Riccardo, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno. Senta, niente, volevo soltanto dire che effettivamente anche quest'anno la mancanza di soldi è, direi, comunque un po' per tutti, però io ho trovato una ottima offerta con, diciamo, un discorso delle crociere con una compagnia che avrà avuto i suoi problemi ultimamente, però praticamente con 50 euro al giorno noi si può andare a farci tranquillamente una crociera con, direi, un prezzo tutto compreso, visto che lei è esperto. La vicenda Costa Concordia ha abbassato ulteriormente i prezzi, ha reso più appetibile questo tipo di soluzione? Sì, sono uscite delle offerte che escono su internet che hanno abbassato notevolmente i prezzi delle offerte. Ci sono dei pacchetti che stanno offrendo a un prezzo davvero, come le dico, molto molto molto conveniente. Ecco, lei non trova che sia, diciamo, inutile fare questo tipo di riflessione questa mattina? Concorderà con me che in realtà è il primo anno in cui ci si pensa veramente, tutti, non ci pensa soltanto chi ha di particolari contingenze. Abbiamo nel nostro patrimonio genetico degli ultimi decenni l'idea che occorre andare comunque in vacanza, ma ci facciamo i conti, cominciamo a pensarci anche che le persone più fortunate, che hanno comunque nel loro budget ciò che è prevedibile per la vacanza, dicono: ma poi chissà cosa succede a settembre, forse è meglio che aspettiamo. Raffaele. Sì, buongiorno. Il suo punto di vista. Allora, io sono a Roma dal 2000, però sono originario di Lecce, per cui ogni volta le vacanze al mare naturalmente le faccio a Lecce, a casa dei miei, adesso anche con la famiglia, e comunque ogni anno le devo programmare per tempo, non posso andare tanto allo sbaraglio perché poi alla fine la vacanza rischia di diventare uno stress, per cui la parte mare è coperta in questo modo. La parte montagna, diciamo, quest'anno ho provato naturalmente, giocando con internet, a trovare qualche offerta, qualche situazione più conveniente, come diceva lei, visto anche il periodo di crisi. Però, quindi lei, anche lei, diciamo, conferma un po' quella che è la mia impressione, c'è un recupero fortissimo delle case dei genitori, dei luoghi dell'infanzia, dei luoghi in cui tradizionalmente si andava, e poi magari in anni più fiorenti delle vacche grasse uno diceva: beh, adesso basta andare sempre a trovare la mamma, vado a farmi un viaggio, e adesso si ritorna un po', si riaprono le vecchie case di famiglia. Ma più che altro nel mio caso è sempre un po' stato così, insomma, perché appunto i genitori ci sono ancora, allora visto che non sono più a Lecce dicono: caspita, neanche l'estate viene a trovarci, e allora insomma è sempre più o meno stato così, tranne rarissime eccezioni. Devo dire che naturalmente in questi ultimi anni la cosa, come dire, ha assunto un valore maggiore. Se prima il Salento non era tanto considerato, adesso sta diventando una meta turistica ambita, e io vedo che, come dire, il valore del tornare a Lecce per fare le vacanze negli ultimi anni sta aumentando, perché prima era tornare dai miei, adesso è andare in una meta turistica ambita, insomma. Sentiamo Gianni. Gianni, già cominciamo a entrare. No, Gianni è caduto, in questo momento non possiamo più sentirlo. Leggo qualche messaggio, mi scrive un ascoltatore: quando ogni anno devo andare a lavorare in Versilia, prendo una casetta, un appartamento per due mesi, aprile-maggio o maggio-giugno. Inevitabilmente tutti gli anni la mia richiesta di fatturazioni mi svengono di fronte da ridere, tutti gli anni. Vedere se anche quest'anno sverranno da ridere di fronte alla richiesta di fatturazione. Dottoressa Flavia Coccia, buongiorno. Buongiorno. Flavia Coccia è il direttore operativo dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Vediamo se dal suo punto di vista riesce in qualche maniera a confortare e a integrare quello che stiamo dicendo. Ci troviamo di fronte a una situazione un po' particolare. Da una parte i segni della crisi si faranno sentire sicuramente anche nelle scelte di vacanza. D'altra parte, tutto quello che era una fetta indubbiamente sulla quale non si può negare, non farà parte naturalmente delle ufficiali offerte turistiche, ma quello che era il mondo delle vacanze al nero quest'anno sarà naturalmente limitato. Tutte le persone che affittavano case, appartamenti, luoghi ameni e facevano una risata, come dice l'ascoltatore, di fronte alla richiesta di fatturazione, magari ci penseranno un po' più quest'anno. Speriamo proprio di sì. Intanto bisogna dire che questo tipo di fenomeno è quasi il 50% del turismo in Italia, quindi è enorme. Chiaramente non tutto questo è in nero sommerso, però una buona fetta di questa parte è sicuramente sommersa. Si pensa addirittura il 25-30% proprio sia completamente in nero, e questo è un dato di fatto. L'altro argomento... Ma quant'è la percentuale del nero? Intorno al 25%, nel senso che non viene proprio dichiarato. Queste sono delle stime fatte anche tramite una serie di ricerche che abbiamo fatto. Secondo lei sono ottimistiche le stime o sono realistiche? Guarda, sono realistiche perché molto di questo 50% che va in vacanza utilizza la casa propria, poi lì sono la parte che va in affitto, una parte si rivolge a, cosa, a delle, dei circuiti più ufficiali, per esempio parliamo dei turisti internazionali dove invece c'è un po' più attenzione su ricevute e fatturazione, invece gli italiani tendono effettivamente a fare tutti in euro, sia d'accordo sia chi affitta sia chi prende in affitto, chiaramente, quindi diciamo è quasi un mutuo accordo purtroppo. Poi diciamo a giugno, come scrive Fabrizio Intonti, c'è l'incognita IMU. Esatto. Che farà fare allora, molte questo... riflessioni anche alle persone che hanno una casa. Esattamente, questo è un fattore sicuramente. L'altro fattore, che l'IMU e tutte le cose che dobbiamo comunque pagare tutti noi, sta preoccupando moltissimo le persone, per cui quasi c'è un 15% pare, a me tendenzialmente, che ha detto che non andrà in vacanza quest'anno, l'anno scorso l'ha fatta, di quelli che sono già andati in vacanza l'anno scorso, quindi gente abituata a viaggiare, che non viaggerà la maggior parte per motivi economici. E poi c'è un 35% di persone, di italiani e studenti incerti, che non sanno cosa devono fare, quanto potranno pagare e se andranno in vacanza. E questi sono dati assolutamente diciamo un po' preoccupanti. Sicuramente è la prima volta che da tutti questi anni che noi rileviamo appunto chi parte e chi non parte, che abbiamo dati così grossi, così importanti. Quindi esiste un primato in questo passaggio tra primavera e estate, esiste un primato che il nostro paese non ha conosciuto, diciamo, dal dopoguerra in poi, perché prima è sempre stata in salita, poi ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma non ci sono mai state tante circostanze concomitanti fra la crisi economica, fra le incertezze sulle nuove tasse e la paura di tutto quel mercato sommerso, che adesso ci starà un po' attento, perché ormai i blitz sono all'ordine del giorno. Immagino che quest'estate il blitz principe sarà andare a vedere se gli affitti sono regolari. Sì, è un altro fattore che sta succedendo, ad esempio, per chi spende in contanti e che non può più spendere, perché c'è una legge in cui oltre 1000 euro non si può più spendere in contanti per acquistare beni e servizi, che invece ha i contanti, per cui si parla di altri, diciamo, fenomeni, che non andranno in Italia in vacanza, ma andranno all'estero dove potranno spenderle. Questo è un altro fattore, non è quantificabile. Sì, questo è vero, molti usano il nero, che gli avanza e gli rimane attaccato, esatto, per andare in vacanza. Adesso invece che darle alla vecchia che ti dà la casetta, esatto, vista mare, te le vai a investire, esatto, all'estero. E questo è un altro fattore. Un'altra importante cosa che io volevo suggerire alle persone di... Questo, il discorso del web è un modo per risparmiare sicuramente, e è che molte imprese in Italia stanno adottando una cosa che si chiama revenue, e cioè cambiano la tariffa della camera a seconda dei giorni, a seconda delle opportunità. Quindi, come diceva quel ragazzo che diceva bisogna prenotare molto in anticipo, è vero, perché se uno comincia adesso a guardare le tariffe può addirittura giorno dopo giorno vedere il cambiamento dei prezzi delle camere di albergo sia in Italia che nel mondo. Quindi è importante viaggiare su internet per trovare la migliore offerta, questo è sicuro, e si trova anche buone opportunità anche in alberghi di altissima categoria. Io, non perché sono esperto di turismo, ma ho trovato un albergo ad Amsterdam 5 stelle e ho pagato veramente 70 euro la camera, per cui si trova, è incredibile, nemmeno una pensione, sì, esatto, perché ci sono delle politiche che loro adottano sulle imprese alberghiere, per cui aumentano, diminuiscono il prezzo della camera a seconda di quante camere hanno vendute. Se ne sono rimaste invendute il 50% di camere, preferisco venderle a un prezzo più basso, ma venderle che farle rimanere vuote. Poi quindi... questo, dottoressa Coccia, implica un'elasticità di movimento. Sì. Uno studente può permettersi di stare in internet, è un momento che tanto non ha grossi problemi, e parte quando... Una famiglia che deve programmare le vacanze, lei immagini che negli uffici le ferie l'hanno già date, chi non le ha date le sta chiedendo incessantemente: quando andate in ferie, dobbiamo fare il piano ferie. Fare un piano ferie è un po' difficile, poi collegarlo all'elasticità che richiede l'albergo Amsterdam a 70 euro. Questo è il problema in Italia, noi siamo un po' troppo rigidi con il discorso delle ferie e delle vacanze, per cui abbiamo questa stagionalità stretta di cui tutto il turismo in Italia poi in qualche modo se ne approfitta, ma non perché sono cattivi, ci sono alberghi che aprono solo luglio e agosto, quindi è chiaro che il prezzo massimo mettono quei due mesi, e c'è questo problema di stagionalità che influenza negativamente il turismo in Italia. Ed è anche dettato al calendario, perché se tu le ferie ce le puoi avere solo in quel periodo, non puoi andare in vacanza in un altro momento, e questo è un problema, secondo me, da affrontare. L'altro tema invece sul signore che invece era arrabbiato, cioè non sono mandato in vacanza, è vero, bisogna dire che in Italia il 50% della popolazione non va mai in vacanza, rimane molti perché abitano in luoghi di vacanza, altri perché non possono farlo, quindi voglio dire, cerchiamo di capire, quando parliamo di vacanze parliamo di metà della popolazione. Sì, ma esiste anche uno spirito umarellico, tristanzuolo, sì, e negativo, per cui la gente dice io in vacanza non ci vado, me ne sto a... perché molte volte andare in vacanza significa spendere meno di quello che si spenderebbe in città, sicuramente, in molte situazioni. Melog, la realtà condivisa. Tutti quelli che cercano di spendere pochi soldi durante i loro viaggi, ecco tre destinazioni per viaggi low cost più convenienti, secondo shermanstravel.com. Contea di Clare, Irlanda. La Contea di Clare si trova lungo la costa occidentale dell'Irlanda e gode di spettacolari paesaggi naturali e scogliere, come quella di Moher, che arrivano ad oltre 200 metri di altezza. Quest'area, molto meno turistica di altre, ha visto forti cali dei prezzi dei pacchetti viaggio e di hotel e bed and breakfast, da 35 euro a notte. .800 24 stiamo cercando di capire quale sia la particolarità di questa fattispecie, di questo incontro spazio-temporale, per cui per la prima volta gli italiani si trovano di fronte a serie difficoltà nel momento in cui dovrebbero scegliere dove andare in vacanza. Sono tante le situazioni che ce lo rendono difficile, l'impossibilità di programmare una vacanza o di essere elastici per una vacanza che ricerchi la più semplice, la più economica, la più fattibile delle destinazioni, lunghe ricerche in internet e un mercato sommerso che è stato valutato dal nostro ospite intorno al 25% di affitti al nero, che quest'anno ci penseranno non una ma 10 volte prima di rimettere sul mercato le loro case con pagamento brevi mano. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. La chiamo dalla provincia di Venezia, da Bibione, e le porto la mia esperienza perché io affitto appartamenti turistici nella località di Bibione. Regolarmente li affitta? Sì, sì, certo, un'attività regolare da 18 anni. Sono appartamenti personali della mia famiglia e niente, ho notato che negli ultimi anni le famiglie fanno comunque vacanze di una, due, anche tre settimane, però tendono a, non so, ad aiutarsi, cioè arrivano con i genitori, quindi condividono l'appartamento famiglie con i genitori, con i nonni, in maniera tale da ammortizzare quella che può essere la spesa anche delle due o delle tre settimane. E comunque nella nostra località, le parlo per Bibione, c'è ancora chi fa la vacanza classica delle due settimane. Ovviamente è una località turistica per famiglie piuttosto ancora economica, direi, nonostante siano i prezzi. Quindi esiste un segmento di vacanza che, per cui cambia poco tutto sommato, che già è sempre stata nei limiti del possibile? Diciamo che negli appartamenti privati, quelli dedicati alle famiglie, ancora resiste quella classica vacanza delle due o tre settimane. Ovviamente c'è anche chi fa la settimana. Quando poi si parla di più settimane, vedo arrivare i nonni, che è cosa che insomma è caratteristica proprio di un periodo più lungo, che aiutano probabilmente la famiglia a portare i bambini in vacanza, a fare le settimane al mare. Va bene, la ringrazio Monica. Gianni, sentiamo Gianni. Sì, eccomi. Allora, due settimane in Inghilterra con scambio casa. Considerate la situazione economica, ma anche, insomma, anche l'idea. Quindi a costo zero praticamente, solo il viaggio? Il viaggio programmato per tempo, a marzo i biglietti 350 euro, siamo in quattro, due genitori e due bimbe. Quindi è fattibile. E come funziona il meccanismo della ricerca e dell'offerta? Allora, il meccanismo della ricerca e dell'offerta, ci sono appunto queste organizzazioni su internet, sono ben presenti e funziona anche per esempio per noi è funzionato così: scegli una destinazione dove arriva il low cost, il viaggio low cost, quindi noi abbiamo fatto uno scambio proprio diretto con chi ci ospita a nostra volta lo ma voi vi incrociate mai, nel senso vi incrociate mai oppure Mentre loro partono, partite anche voi, trovate le chiavi? Loro partono un giorno prima, noi li accogliamo, arriviamo lì e loro ci danno, quando arrivano qua, ci danno le chiavi dell'auto. Facciamo scambio casa e scambio auto. Ah, sì, interessante. E quindi è la prima esperienza, adesso poi vedremo come va. Lei ha totale fiducia che le persone non le distruggeranno casa? Sì, non, ma esiste una garanzia? Sì. Potete in qualche maniera garantirvi? Non esiste una garanzia, voglio dire, assoluta. Cioè, ci sono dei regolamenti della casa che sono accordi preventivi, ma insomma. E poi le esperienze, così come le riportano appunto i siti e i forum delle persone che fanno queste cose. Quindi insomma, esiste una maniera che permette una programmazione, permette un minimo esborso e permette comunque di stare con la famiglia un periodo considerevole in Inghilterra, e questo senz'altro utile. Grazie. Ettore. Ah, buongiorno Nicoletti. Dunque, io volevo dire questo. Siccome io e mia moglie da giovani eravamo appassionati di pesca sui fiumi, eccetera, siamo pensionati, non abbiamo molti soldi, la verità. Abbiamo pensato di ripercorrere tutti quegli itinerari che facevamo, che scoprivamo man mano, per esempio sul fiume Ticino, sull'Adda, eccetera, spiaggette isolate, magnifiche. Soprattutto quando andavamo al mattino presto, i suoni della natura, abbiamo detto, ma perché no? Ci portiamo due sdraio, un ombrellone, la radio, un libro, e ci godiamo la natura, se piove ce ne stiamo a casa, ci costerà un po' di benzina, d'accordo, mezz'oretta di strada, e in fin dei conti se andiamo in vacanza o al mare, il viaggio ci costerebbe comunque, e quei soldi li investiamo per spostarci al massimo, dico, i 30-40 km che a Milano. Quindi riscoprite il territorio in cui vi siete prodotti. Ma senz'altro, stiamo organizzando un itinerario ricordandoci proprio i posti, le spiaggette, eccetera. Il mangiare, dobbiamo comunque mangiare sia a casa che lì, ce lo portiamo tranquillamente, ci godiamo la nostra tranquillità e la serenità. E così, insomma, con i pochi soldi che abbiamo possiamo sfruttare. Beh, questa adesso è un'idea molto creativa, è la maniera di riscoprire il posto in cui si vive, e che probabilmente ci sono delle risorse, non ci abbiamo mai pensato, abbiamo sempre pensato di andare lontano, di muoverci, è anche sano, salutare, è creativo questo, però uno in mancanza di altro, piuttosto che deprimersi, prende una mappa in mano e vede che, come ha visto lei con sua moglie, che esistono luoghi che vale la pena di visitare, di approfondire nel luogo in cui sta vicino. Non la vedo come una scelta rinunciataria, mi fa molto piacere. Damiano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sono Damiano da Roma e volevo fare un'osservazione sia da turista che da osservatore, perché lavoro in aeroporto, quindi diciamo vedo bene i movimenti anche del turismo, del diciamo quell'aereo più che altro. Quindi niente, da turista ho sempre prenotato via internet, diciamo, da quando ho iniziato a viaggiare da solo praticamente. Alberghi o appartamenti o cose varie. Lei viaggiando solo ha un suo privilegio, comunque non deve fare i conti con nessuno. Scusa, solo da, diciamo, o in coppia o non con i miei, insomma. Sì, perché non ha una famiglia, non ha dei figli con le scuole, no, solo ragazzo, non ha un marito o una moglie che deve coincidere la richiesta delle ferie alle sue, quindi momento no, ancora no. È la condizione migliore per fare delle vacanze a prezzi limitati. Esatto, sì. Quindi una vacanza intelligente, anche perché quest'anno proprio andato in Svizzera, quindi risparmio sulla benzina, diciamo, ecco. Va a fare lo spallone di valuta, cosa va a fare in Svizzera? Vado, diciamo, sullo Stelvio e poi passo il confine. Va bene, mi fa piacere. Allora, torniamo a Flavia Coccia, ricordo direttore operativo dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Ha avuto qualche spunto dagli interventi così spot dei nostri ascoltatori? Beh, dice, mi confermano appunto il fatto che sicuramente il web è l'unico modo in questo momento per trovare, cioè l'unico modo, uno dei modi per trovare vacanze a basso costo. Ma devo dire che anche in agenzia di viaggio si sono attrezzati per fare in modo che ci siano dei pacchetti, perché comunque se il mercato si contrae gli operatori rispondono, quindi bisogna anche avere, diciamo, un po' di se chi non sa usare internet può pure andare all'agenzia di viaggio vicina e trovare dei pacchetti convenienti. Io credo che in questo momento il mercato delle vacanze offre vacanze di tutti i prezzi, da pochissimo a tantissimo, quindi è aperto il mondo delle vacanze. Io ho un'idea, vediamo se lei me la conferma. Se in questo momento chi non avesse, per assurdo, per sua grande fortuna, nessun impegno e avesse tempo, uno dice guarda, io ho tutto il mese di giugno libero, non devo fare nulla, mi metto a cercare. ha delle occasioni fantastiche. Assolutamente sì, ha delle occasioni fantastiche. Il discorso è che bisogna cominciare a cercare occasioni fantastiche in periodi non proprio a Ferragosto, e dobbiamo cominciare a capire che le vacanze vanno prese un po' più a giugno, un po' più a settembre, magari anche nell'arco dell'anno, non è dobbiamo per forza andare ad agosto in vacanza, possiamo andarci a marzo, ad aprile, a maggio, eccetera, e dobbiamo forse fare più periodi di vacanze e risparmiando, invece di farne solo una lunga, forse dovremmo cominciare a ragionare un po' come ragionano gli europei. Mi hanno sempre preso per eccentrico, ho sempre sostenuto che una città come Roma agosto è fantastica, sì, io ho sempre cercato di mandare la famiglia agosto in vacanza, starmene in città, trovare la maniera di lavorare agosto, perché è il periodo migliore, si vedono frotte di persone, vengono a visitare la città, io ci abito, e invece fuggirsene a settembre sarebbe l'ideale, fuggirsene aprile, che è un mese terrificante, che è invasa di turisti, di pellegrini, di fedeli, e di pullman, di autobus, di giapponesi, di polacchi, via dicendo. Ecco, uno dovrebbe riuscire a prendere in positivo il senso della crisi e usarla per cambiare alcuni costumi che in realtà danno disagio in generale a tutta l'organizzazione sociale. Assolutamente, tant'è che poi sta succedendo, perché piano piano le vacanze si stanno diminuendo ad agosto e stanno aumentando nei periodi accanto, giugno, luglio, settembre, eccetera. Quindi questa, io la vedo una cosa positiva, e dobbiamo continuare con questo percorso, non esiste solo agosto in vacanza, per me è un errore proprio, non è un errore, è un obbligo per molti, ma è una cosa che deve cambiare proprio anche come impostazione delle aziende per dare ferie. Sentiamo Antonio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Eccomi. Ti provoco. Provocami. Perché l'intenzione, ho sentito che... Aspetta, prendo una lametta così mi taglio le vene dal dispiacere. No, assolutamente, non arrivo fino a quello. Io ho una piccola villetta nella campagna della zona del Castel del Monte, in provincia di Bari, e non mi vergogno ad ammettere che quando mi capita di affittarlo, questo lo faccio non seguendo i criteri della fiscali, della dichiarazione dei redditi. Perché lo viene a dire alla radio? Lo sai come funziona? Che di solito la finanza, quando sente queste telefonate, ci obbliga poi a dare il numero della persona che ha chiamato. Io prendo per buono la tua testimonianza, ma spero che tu scherzi, perché io non è che mi provochi, ti dico, se io devo scrivere un articolo e questo articolo mi viene pagato, su questo articolo pago tutte le tasse possibili e immaginabili, la previdenza e via dicendo. Non trovo perché la tua villetta che ti dà un reddito tu debba prenderlo senza contribuire alla cosa pubblica con le tue tasse, però ognuno ha il suo punto di vista e non voglio cambiare la tua idea. Perché tu trovi che questa sia una grande figata affittare a noi? A volte va proprio anche al limite della sopravvivenza, anche e soprattutto nell'epoca nella quale sono della trasmissione di Giannino, nell'epoca degli sprechi nel settore pubblico, non vedo perché poi dei piccoli sacrifici, anzi dei grandi sacrifici per delle piccole entrate, poi debbano sempre essere dichiarate. Se l'esempio che abbiamo è quello ai quali noi, appunto, con quali noi ci confrontiamo ogni giorno, non a un certo punto di vista sarei portato anch'io onestamente nella parte più detestabile della mia anima a pensare così, ma non so, sarà per il rigore in cui mi hanno educato, sarà perché alla fine non conviene mai, o sarà perché persone come te l'hanno fatto tutta la vita, gli va bene. Se facessi io una cosa del genere una volta, sarebbe la volta che mi fucilerebbero alla schiena. Comunque, in bocca al lupo, continua così se questo ti fa star felice. Melog, la realtà condivisa. Cambogia. A dispetto di altri paesi del sud-est asiatico come il Vietnam e la Thailandia, la Cambogia è molto meno costosa, anche perché meno frequentata dai turisti internazionali. Qui si può scegliere tra una splendida crociera sul Mekong, tra Cambogia e Laos, e la visita nei templi di Angkor o di Phnom Penh, la capitale, dove gli hotel di lusso si trovano anche a 70 euro a notte. Repubblica Dominicana. Nella Repubblica Dominicana, a parte le vacanze organizzate, ci sono ottime possibilità di affittare una casa da 200 euro a settimana o trovare un piccolo hotel sul mare, evitando le strutture troppo turistiche. Anche per quanto riguarda i voli, ci sono ottime offerte, a partire da 590 euro. Qualcosa abbiamo capito, che in realtà la crisi in questo caso ci permette dei comportamenti resilienti tornando all'argomento di qualche giorno fa, noi possiamo fletterci a quello che è l'imperio del budget limitato, imparare ad organizzare i nostri momenti di fuga, di felicità, di rapace e piacere, quando gli altri magari stanno lavorando, o viceversa, approfittare dei periodi che, in cui le città si vuotano, per dare senso al nostro tempo libero proprio in quelle occasioni. Quello che stiamo capendo è che in realtà cambieranno molte cose, stanno cambiando molte cose, e come sempre avvantaggiato è chi riesce a essere flessibile, a essere elastico, non ha gabbie precise che organizzano il proprio tempo. Da quel giorno a quel giorno tu devi prendere le ferie, e da quel giorno a quel giorno è molto difficile organizzare delle ferie che siano adeguate alle nostre attuali limitazioni di budget destinato alle vacanze. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Chiamo dalla provincia di Bergamo. Ecco, io volevo proporre un'esperienza che abbiamo fatto con mio marito da diversi anni, che quando avevamo i bimbi piccoli lavoravamo, riuscivamo a prendere le ferie appunto fuori stagione, e con una tessera, con i campeggi convenzionati, con una tessera che appunto convenziona campeggi europei, naturalmente noi siamo in Italia perché la benzina costa molto, in bassa stagione, cioè dall'apertura di solito verso metà aprile sino al 30 di giugno, e poi dopo le grandi ferie verso il 25-26 agosto sino alla chiusura. Quindi voi andavate in roulotte? Andavate in roulotte, sì, andiamo ancora una piccola roulotte. Prima avevamo addirittura la tenda con i bambini, con le tende con quelle. Ma quando piove novembre non è che proprio il mese migliore per andarsene alla diaccia? No, no, ma guardi, siamo attrezzatissimi, ci mettiamo persino il vaso di terracotta sul gas, così facciamo il tipo la stufetta. Si può fare benissimo, sì, guarda, certo. Dentro la roulotte, accendete la stufetta dentro la roulotte, voi due, sì, con i figli. E sì, sì, sì. Adesso è fuori piove grandi, e con i lupi che ululano, e voi cosa fate dentro? Giochiamo a carte. Beh, però è qualcosa di fanciullesco. Io queste cose sognavo di farle quando ero bambino, di stare in un... Io l'ho fatto fare i miei figli, adesso i figli sono cresciuti, ma hanno imparato. Pensi che addirittura andiamo a spendere, penso che riusciremo a partire qualche giorno, a giugno, una decina di giorni, 16 euro al giorno, la piazzola, compresa la corrente, comprese le docce calde, compresa la mia cagnolina che pesa 6 kg, perché i cani poi in altre stagioni non ci vanno più, meglio tenere la guinzaglia. Perché il bagno non c'è dentro la roulotte, naturalmente. Ce la diamo piccolina, ma guardi, io ormai ho quasi 61 anni, sono piena di artrosi. E quindi non si può chiudere dentro due centimetri quadrati. No, ce la faccio, emergenza, però sa, una bella doccia quando magari... Può rimanere incastrata dentro, ci sono dei problemi in effetti, sì, può succedere. Esatto. Sì, ma esatto. Diciamo, per l'intimità come fate? Dormite tutti dentro lo stesso scatolone? No, sono due posti più un terzo posto letto. Ripeto, adesso i miei figli non ci sono più. Sono... Ma quindi andate solo lei e suo marito adesso? Io, mio marito e la cagnolina. Però a giugno verrà mia figlia, che è incinta del secondo bimbo, con la bimba. E nella piazzola si può mettere anche un'altra tendina piccola, così lei dorme con la sua bimba. E poi mangiamo tutto assieme. Tanto, guardi, costa mangiare anche a casa. Scegliamo posti dove ci sono discount. No, a questo punto di vista uno fa la spesa come la facesse a casa propria, quindi... Esatto, no, no. Esatto. Ecco, però esatto. Dov'è il lato positivo, qual è, oltre all'avventura, al divertimento? Il andate mare. Al mare. Il mare, no, a noi a Bergamo manca il mare, abbiamo bisogno proprio di... Quindi voi andate al mare, comunque non vi preoccupa poi il fatto di dover tornare, stare in albergo, vivete la natura. Guarda, questa è una perfetta scelta, una scelta antica comunque, ci sono sempre state le persone che andavano nei campeggi. Pensavo che ultimamente fosse diventato anche oneroso andare nel campeggio. Io ancora ho ricordi fanciulleschi dell'epoca in cui si poteva piantare la tenda ovunque, si poteva fermarci ovunque, chiudevano un po' un occhio. Oggi sono molto più rigorosi da questo punto di vista. Roberta. Buongiorno a tutti, sì. Beh, noi siamo una famiglia un po' atipica, nel senso che sono 10 anni che non possiamo permetterci di andare in vacanza. In che città state voi? Una città... Viviamo a Roma, sì. Però io ho fatto la scelta di non lavorare per seguire la famiglia e le ragazze, che ho due ragazze, insomma hanno 13 anni e 11 anni oggi, e quindi con uno stipendio solamente la vacanza per noi non è possibile. Beh, Roma è una città che tutto sommato c'è possibilità di fare, ecco, escursioni dire, quotidiane. Infatti è proprio questo quello che voglio dire, le mie ragazze non vivono di nessun tipo di frustrazione, in quanto prima di tutto ci riappropriamo della città che svuotandosi diventa meravigliosa. Fantastica, è vero, sì. E questa è una cosa bellissima, abbiamo il tempo a disposizione perché non c'è più l'impegno degli studi, di conseguenza i musei, i parchi, i giardini, la bici, eccetera. In più c'è da dire che possiamo fare una giornata di mare come facevano i nostri genitori negli anni 60 con il come Aldo Fabrizi e la famiglia Passaguai che vanno con il cocomero e la cartata. Con molta dignità, le assicuro, con molta dignità preparo una pasta estate fredda e con molta dignità troviamo un angolino magari all'isola del Giglio, perché comunque le ragazze gli fa bene fare un tuffo in un mare pulito finché e si può fare comunque dalla mattina alla sera tranquillamente e rientriamo la sera e gli dico che non abbiamo nessun tipo di problema, anzi tutto è a vantaggio di ritrovare la famiglia, il nostro nucleo, che è la cosa fondamentale proprio. Ma guardi, le posso confermare, non si deve sentire in questo, dice, senza vergognarsi. Questo è praticamente quello che faccio io da anni. Per me a sradicarmi da Roma è sempre un problema. Affatto. Non me ne vergogno affatto, e le ho detto, anche le ragazze non la vivono come una frustrazione, anzi è una cosa molto bella, la mia voce un po' così è solo perché è la prima volta che pubblicamente parlo e non sono abituata, ma assolutamente siamo molto fieri delle nostre scelte. Quindi questa crisi del momento, insomma, non a voi non vi tocca, a voi non vi tocca, per voi è totalmente indifferente quello che accade, quello che facciate prima continuate a fare. Sentiamo Franco, mi sembra sia antitetico rispetto a questa ascoltatrice. Franco? Pronto? Sì, pronto? Franco, sì. Sì, senta, nulla, visto quello che stava dicendo anche la signora precedente. Niente, io le dico, con due figlie, una di 9 e una di 14, sono però già 9 anni e me ne vado in vacanza in Croazia. Che costa molto meno che starsene a casa sua. Che costa molto meno è starmene a casa, in un posto per me bellissimo, perché sono 9 anni e ci torno e quest'anno sarà il decimo. Immerso nel verde, il mare, la natura, io mi rilasso. Spendo il giusto, perché se pensa che con 4 persone, una casa affittata, una casa tra l'altro bella, cioè con un giardino, con 2 camere, una cucina e un bagno, quindi una cosa che investire a 15 giorni pagheresti tra 2.000-2.500 euro, lì con 600 euro me la danno. Vado al ristorante tutte le sere, faccio una vacanza decorosa, spendendo, 10 anni fa ne spendevo 1.800, l'anno precedente ne ho spesi 2002. E quest'anno ce la fa ancora a fare questo tipo di vacanza? Quest'anno ce la fa finché i croati avranno la fortuna di non entrare nell'euro, poi saranno dei poveri disgraziati come noi, strangolati da questa disciplina europea. Vabbè, finché può ne approfitti e buon po' il faccia. Ringrazio Flavia Coccia, direttore operativo dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Ringrazio tutti quelli che questa mattina ci hanno dato idee, suggestioni e conferme di quella che era la nostra impressione. Grazie Fabrizio Intonti, Valerio Rocchetti, a domani.